La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici all'ascolto, Franco D'Assisti in studio come ogni fine settimana per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea, il nostro settimanale cinematografico qui su Radio 24. È una settimana nella quale arrivano sui nostri schermi 5 nuovi film, alcuni di grosse ambizioni commerciali come Un'estate ai Caraibi, di cui parleremo fra poco, alcuni altri che abbinano a queste ambizioni anche la qualità di un racconto e di un affresco d'epoca come I Love Radio Rock, un film pieno di grande musica ambientato nell'Inghilterra della fine degli anni 60. Insomma, come spesso accade, ce n'è per tutti i gusti. Arriva nelle nostre sale il film d'esordio alla regia di Madonna, anche questo è un elemento di grande interesse, un buon horror dalla Francia come Martyrs e un film di culto come Ken il Guerriero, personaggio d'animazione che ha alimentato le fantasie di tutta una generazione appunto di spettatori. Parleremo di questo, quindi giocheremo insieme con il nostro DVD game. Io vi ricordo già sin d'ora il nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea @radio24.it. Parleremo di un festival che comincia proprio in questo weekend, un festival storico come quello di Taormina, e ascolteremo le novità dagli Stati Uniti, perché è uscito in America il nuovo film di Woody Allen. Ve ne parleremo nella nostra rubrica Trailer USA. E allora spegniamo idealmente le luci, entriamo in sala e ascoltiamo le suggestioni sonore dei film della settimana nel nostro audio sommario. Kenshiro, che lo scontro abbia inizio. Lucy? Anna, non devi dirlo, Non devi fare così. Non sono io. Hai preso le tue pillole? Sì, e tu? Questo è un esercizio rispettabile! Non puoi presentarti qui con quelle pillole in tasca e un occhio nero spaventando i clienti! Io mi rifiuto di lavorare per un integralista! Amici carissimi, siamo qui riuniti al cospetto di Dio, parrebbe, per assistere alle nozze di quest'uomo e questa... dea scesa in terra. Io vi dichiaro marito e schianto di moglie. Mi potreste fare accendere, per favore? Che c'è, di italiano? Esattamente, di Puglia, di Cerignolo, perché? No, che non siamo di Bari. Ma non è possibile, da là ci sembravate di Treviso. Come sempre il nostro montaggio iniziale si chiude con il primo film di cui vogliamo parlarvi, che è proprio Un'estate ai Caraibi. Ampio spazio per questo cinecocomero, come è stato soprannominato, ormai il secondo anno che Vanzina ci riprova anche d'estate. L'anno scorso gli andò bene, quest'anno ci riprova appunto con Un'estate ai Caraibi, un cast variegato. Ascolteremo fra poco le interviste, oltre che con Vanzina, con Brignano, Bertolino, ma ci sono Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Elena Seredova e via via Gigi Proietti, ovviamente, come dimenticarlo, e via via insomma tutto il materiale che riempirebbe più di un numero dei rotocalchi estivi. E allora facciamoci raccontare Un'estate ai Caraibi dalla nostra Daniela Faggione. Lo sapevo io, dottore, gliel'avevo detto di andare piano. Oddio, che macello. Un ragazzo toscano scopre di essere stato tradito dalla fidanzata, un dentista napoletano deve riconquistare l'amante, un autista laziale viene costretto dal palazzinaro per cui lavora a seguirlo lontano dalla famiglia, un bancario di Pavia, cui il medico ha pronosticato 2 mesi di vita, fa una lista delle cose da fare prima della fine. Tutti hanno un buon motivo per partire, raggiungere Antigua, perla dei Caraibi, dove li ha preceduti da qualche anno un giocatore malato di scommesse che ha dilapidato tutto il suo patrimonio sul cavallo sbagliato. Ci dobbiamo fidanzare. Ma con chi? Ma come con chi? Io e te. Ma io non ti amo. Ma neanch'io ti amo. E che schifo è questo? In vacanza si sa, tutto è più bello, ma non è sempre più facile. Ecco allora che il cornuto scopre di essere tale a causa del suo migliore amico. Il dentista si ritrova nel villaggio turistico, la sorella della moglie con consorte. L'autista viene continuamente vessato dal suo padrone che lo ricatta col mutuo. Il bancario malato decide di divertirsi fino alla fine, ma non del tutto onestamente. E lo scommettitore fallito deve rubare ai turisti italiani aiutato da un ragazzino. Salù, il bambino. Il bambino? È il puteo, insomma. È Veneto? Lu? No, Vu. A me? No, mi sono di Messico. Ah. Divertimento prevedibile nel secondo cinecocomero dei fratelli Vanzina, vizi sempre più viziosi e virtù sempre più rare degli italiani vengono esportati questa volta ai Caraibi. Sarà l'effetto del gossip politico, della sciatteria televisiva comunque, ma il film fa sorridere quasi per l'innocenza dei suoi ammiccamenti, certo più che per le sue battute. Ai nostri microfoni Enrico Vanzina, che firma soggetto e sceneggiatura. Prendere in giro la politica e il malcostume in Italia sembra sempre più difficile. In quasi tutti i giornali nell'ultimo anno ho letto almeno 10 volte la politica sembra un film di Vanzina, per cui a questo punto se la politica fa i nostri film noi faremo altri film. Tra i personaggi della vostra storia anche il premier Berlusconi. Un anno fa quando abbiamo scritto il film abbiamo pensato di mettere, siccome Berlusconi ha una casa veramente ad Antigua, di mettere come personaggio assolutamente laterale del film Berlusconi. Abbiamo fatto venire un sosia e quello è stato abbastanza divertente perché c'è un architetto che sta lavorando alla casa di Berlusconi. Una sera l'ha visto il nostro finto Berlusconi al ristorante ed è venuto e gli ha detto, dice, presidente, allora quella stanza come la vogliamo fare? Si era sbagliato, l'aveva preso anche lui per Berlusconi. L'operazione Cinecocomero ha funzionato la prima volta l'anno scorso e avete deciso di ripeterla. Insomma, noi insieme a mio fratello Carlo eravamo stupiti dal fatto che andando in giro per l'Europa si vedono cinema aperti in estate, il momento magico del cinema, perché gli studenti non vanno a scuola, i ragazzi sono più liberi. Invece in Italia c'erano le serande chiuse, chiuso per ferie, tragedia. Allora l'altro anno abbiamo cercato di dare una proposta italiana, di commedia all'italiana, ha avuto un grandissimo successo e quest'anno cerchiamo di rinsaldare questa tendenza, anche perché crediamo che con l'arrivo dei multiplex e con un modo diverso di fruire il cinema l'estate sarà sempre di più una stagione importante. Anzi, ci appelliamo anche ai nostri colleghi che ancora non ci hanno seguito, non capisco come mai vogliono andare tutti a Venezia e poi uscire con 14 film dopo Venezia. Uno degli interpreti che spicca nel film è Enrico Brignano. L'attore interpreta l'autista che a un certo punto si ribella alle angherie del suo datore di lavoro. Ma a Brignano, nella vita reale, che cosa fa saltare la mosca al naso? I politici. Io quando vedo i politici che dicano la verità o che le bugie, tanto ormai è la stessa cosa. Noi abbiamo pochissima credibilità nei politici e loro non credono in noi, loro non credono che possa arrivare il giorno in cui ci stanchiamo veramente. Già le ultime elezioni se ne è data prova, sono andati pochissimi a votare e loro credono di aver vinto, invece stanno perdendo il paese e la credibilità nei confronti degli italiani. Per la prima volta al lavoro con i Vanzina anche un altro Enrico, Bertolino. Come si è trovato con questo genere di film? Io non voglio etichette, proprio per quello che faccio come i Viet Cong, no? Cioè mi sposto da un cespuglio all'altro, tiro le sassate e poi mi nascondo. E questa è una sassata, nel senso che chiunque pensa che bisogna essere sempre, fare un film solo di Tornatore oppure di Gianni di Amelio per essere di sinistra o per essere mentalmente impegnati, si può dimostrare che si può fare un film anche come questo senza avere una fedina penale, anche perché mi sembra che i registi si chiamino Vanzina, che siano figli di Steno e che il mio episodio nella fattispecie ed anche da altri non abbiano dentro quella classica pesante volgarità dei film di Natale. La rosa purpurea. Di musica, il film di cui vogliamo parlarvi ora, il film con cui apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea, la migliore musica dell'età d'oro del pop e del rock. I Rolling Stones, gli Who, i Kings, Jimi Hendrix, Leonard Cohen, Otis Redding e molti altri. Piccola digressione letterale, il film si intitola The Boat That Rocked, letteralmente la barca che cullava, giocando sul doppio significato di rock come verbo e come genere musicale. Risolto in italiano con I Love Radio Rock, il titolo ci può stare, il film pure. Nel 1966 erano 571 le stazioni radio americane che sparavano il rock and roll 24 ore al giorno. Ma nel paese che vi ha dato i Beatles e i Rolling Stones, l'unico modo di ascoltare quella musica era sintonizzarsi su una barca. Siete in ascolto di Radio Rock, io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia verso l'est. L'incipit del trailer che avete ascoltato spiega bene il contesto. L'Inghilterra della fine degli anni 60 vive nella contraddizione. Da una parte sta germinando due delle band più importanti della storia, Beatles e Rolling Stones, ça va sans dire, e dall'altra impedisce al popolo di ascoltare quella musica con gli assurdi divieti alle radio in FM. Che poi la gente, 24 milioni di persone ogni giorno, quella musica l'ascolti lo stesso, dalla mattina alla sera, è un altro paio di maniche. Ci pensano le radio pirata, che trasmettono da pittoreschi pescherecci riadattati a stazioni d'emissione, in mezzo al mare, al largo, dalla costa e dall'ipocrisia britannica. Quindi ecco che arriva, apposta per voi, Il vaffa! Finito questo bel pezzo musicale. Non farmi questo. Perché? È solo una parola. Come no? Ma ti illustro la situazione. Le autorità già non ci sopportano. Se lo fai ci odieranno e di riffe o di raffe troveranno il modo di chiuderci. Sì, non possono chiuderci. Siamo pirati. Per questo ce ne siamo qui, in mezzo all'oceano. Credimi, troveranno il modo. Il governo aborre il libero pensiero. Ok, lo tengo presente. È su una di queste barche che un giorno sale il timido e spaesato Carl, espulso da scuola e mandato dalla madre a espiare sul peschereccio Rocchettaro. Le mamme di una volta. Ma c'è un motivo. Il patron assoluto della radiobarca è Quentin, uno strepitoso e dandissimo Bill Nighy, quantomeno padrino del giovane Carl. A bordo del natante musicale il ragazzo conoscerà una fauna di strambi DJ, il conte, prima e sopra di tutti, un americano grosso e sfacciato che è Philip Seymour Hoffman e quando c'è lui difficilmente si sbaglia film, il suo braccio destro Dave, Nick Frost, il gentilissimo Simon in cerca del vero amore, il corpulento e vagamente erotomane Midnight Mark. È una banda strampalata divisa fra un amore smodato per la musica, l'uso delle droghe più svariate e della cabina letto, quasi sempre per dormire. Una volta ogni 15 giorni però per salutare le ragazze che arrivano in pellegrinaggio sulla barca del rock. L'arrivo della bella nipotina del patron, della promessa sposa di Simon e di Gavin, il numero uno dei DJ inglesi che fa scintille col conte, trasformeranno la situazione sulla barca da caotica a ingovernabile. Sì, signore e signori della Gran Bretagna, Carl emerge ora dalla Camera dell'Amore. Carl, saluta i 20 milioni del pubblico che aspettavano col fiato sospeso di sapere se tu avessi finalmente perso il tuo prezioso fiore stasera. Sì, ragazzi, lei sta... Questo per me era un sì. Era un sì? Tieni presente che rispondere "non voglio rispondere a questa domanda" è un sì. Nel frattempo, però, sulla terraferma, le radio pirata sono entrate nel mirino delle autorità di Sua Maestà, incarnate dal ministro Dormandy, un cattivissimo Kenneth Branagh, il quale decide di dare la chiusura di quelle stazioni in pasto all'opinione pubblica puritana e manda i suoi sgherri a modellare leggi ad hoc per mettere fuori legge, una volta per tutte, i pirati del rock. Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina. Ci credevamo immortali, ma, beh, contro il potere nulla si può. E quindi state bene, fate i bravi. Ascoltate musica, che fa sempre bene. È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1. E il resto è silenzio. Bravo. Grazie, cara. Grazie, cara. Gran bel lavoro, Dominic. Ben fatto, Pirlot. Grazie, Sir. Alla regina. Al governo di Sua Maestà. Alla regina. Scherzavamo, amici! A rock! I Love Radio Rock, ispirato a una storia realmente accaduta nei fantastici 60s, è una bella bibita fresca nel caldo, ancora non torrido, dell'estate cinematografica italiana. Le canzoni sono di una bellezza e di un'importanza gigantesche e sono tutte contenute in un imperdibile CD e sono usate con intelligenza per descrivere un'epoca e raccontare una storia. Richard Curtis dirige con piglio giovanile e ammiccante, quello che ha fatto la fortuna di film come Love Actually o Quattro matrimoni e un funerale. I Love Radio Rock è un film per ricordare un tempo, non così lontano sul calendario, anni luce invece, nelle nostre anime, in cui qualcuno viveva inseguendo i sogni, anche quelli più ingenui. Sempre meglio però dell'apatia senza speranza che sta stritolando il nostro oggi. Gli abbiamo proposto quindi I Love Radio Rock e cominciamo a giocare con il DVD game di questa settimana. Come sempre, tre frammenti di un film che voi dovrete indovinare per provare a vincere il DVD proprio di quel film. La risposta arriverà la prossima settimana qui durante la trasmissione. Ascoltiamo la prima traccia. Sta squillando. Chi è? È il numero di mio fratello. È l'unico numero che conosco. Cerchiamo di essere criptici, perché appena ve ne renderete conto capirete subito di che film si tratta. È un grandissimo DVD game. Questa settimana, fra poco, ascolteremo altre tracce. La Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a giocare con noi. Bene amici, abbiamo ascoltato il racconto di due film, Un'estate ai Caraibi e I Love Radio Rock. Sono sicuramente i due film che hanno la maggiore possibilità di entrare nelle zone alte della classifica degli incassi in questo fine settimana. Sentiamo qual è il punto di partenza, come sono andate le cose lo scorso weekend al Botteghino, perché sono successe cose importanti proprio ai vertici. Ritroviamo Daniela Faggion nella sua consueta Screen Parade. Una sola new entry in top 5, ma capace di conquistare la vetta. Scende intanto al quinto posto Vincere di Marco Bellocchio, che con altri 220.000 euro supera il 1.600.000. Questa guerra a cui l'Italia non deve assolutamente restare neutrale darà col sangue alla ruota della storia il movimento. Una posizione in meno anche per il thriller dal sapore nordico Uomini che odiano le donne, sopra il 500.000 di euro nel weekend e nel complesso già sopra i 2.300.000. Blomqvist è pulito. Non ho trovato niente su di lui, è completamente pulito. Cede lo scettro ma resta sul podio con la medaglia di bronzo Angeli e Demoni, che incassa poco più di 840.000 euro ma arriva a 17 milioni complessivi, strappando ormai in pratica a Kung Fu Panda il terzo posto negli incassi di stagione. Saldo al secondo posto dal suo esordio Una notte al museo 2, che sfiora i 5.400.000. Debutto in prima piazza invece per Terminator Salvation, che salva il mondo con poco meno di 1.500.000, indistruttibile. Avanti ragazzi, le macchine sono il nemico. Sicuramente ha un pubblico più di nicchia, ma è una nicchia grande, importante, soprattutto generazionale. Si rivolge Ken il guerriero, la leggenda di Raoul. È il terzo episodio di una saga che dovrebbe contarne 5, intitolata La leggenda del vero salvatore, realizzata in Giappone per festeggiare il 25enne della nascita del personaggio di Ken. Abbiamo già visto in sala Ken il guerriero, la leggenda di Hokuto. È arrivato in DVD il secondo capitolo, La leggenda di Julia, e questa volta ci troviamo con La leggenda di Raoul di nuovo nelle sale cinematografiche italiane. Ce lo racconta la nostra Micaela Bellisario. Calmatevi. Sì, anche a me fa piacere vedervi, ma ora dovete proprio lasciarmi andare, ragazzi. Il vostro papà deve recarsi ancora in un posto prima di riposare. Kenshiro, ascoltatemi. Raoul si sta avvicinando. Dobbiamo sbrigarci. Alla fine del XXI secolo, la Terra è sconvolta da un terribile conflitto nucleare che ha portato tutte le civiltà al collasso. Le bande saccheggiano e assalgono gli insediamenti dei sopravvissuti. La legge del più forte prevale sugli innocenti e gli indifesi. L'unica speranza per assicurare la continuità della civiltà umana è l'arrivo di un nuovo salvatore. Kenshiro e Raoul, fratelli depositari delle tecniche di combattimento della divina scuola di Hokuto, sono i candidati ideali per questo ruolo. Kenshiro rappresenta la strada dell'onore e Raoul quella del potere. Però tra loro solo uno potrà diventare il successore di Hokuto. Non ti posso condurre sul mio stesso cammino. Che cosa state dicendo? Perché? Non lo sto facendo per te. Per questi bambini non ci sei che tu. Però io... Chi riesce a guardare avanti di 10 anni pianta un albero. Chi guarda avanti di 100 invece dà vita e cresce altre persone. Mentre i due fratelli si avvicinano allo scontro finale, comprenderanno che il loro destino è legato a colei che si nasconde dietro la misteriosa maschera dell'ultimo guerriero di Nanto. Il destino dei due fratelli è legato a Shu, l'uccello d'acqua di Nanto. Sbrigati piuttosto a rivelarmi la sua identità. Riferisco quanto mi chiedete con il dovuto rispetto. La sua identità è... Giulia, mio signore. Come ho potuto constatare, Giulia è ancora viva. Dopo il film Ken il guerriero, la leggenda di Hokuto e Ken il guerriero, le origini del mito, arriva il terzo film della saga, Ken il guerriero, la leggenda di Raoul. Il film è diretto da Toshiki Hirano e dagli autori storici del manga, Tetsuo e Buronson. Il manga di Ken il guerriero è nato nel 1983 e il successo del personaggio di Ken è stato consacrato con le serie televisive. Questo terzo capitolo della saga è proprio il racconto determinante della battaglia finale fra Kenshiro e Raoul. Per chi ama il genere, un cult da non perdere. Ken il guerriero, la leggenda di Raoul. Al suo interno si trovano una gran quantità di stereotipi della cultura dei manga: l'olocausto nucleare, le arti marziali, il senso del sacrificio, la tristezza, il dolore, l'amicizia e l'amore. Ma quello... Il re di Okoto mi raggiungerà prima del previsto. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla terza parte della Rosa Purpurea. È il momento di parlare del film di Madonna, Sacro e Profano, un film che ormai ha i suoi bei quasi 2 anni come produzione. È stato annunciato, poi presentato quest'anno al Festival di Berlino e finalmente, sebbene un po' fuori stagione, trova l'uscita italiana. Forse un po' fuori stagione perché è un film molto particolare, molto singolare, che però ci restituisce tutta l'originalità e anche l'intelligenza di questa straordinaria pop star che però ha dimostrato già più volte di saper gestire il suo talento e questa volta prova a metterlo a disposizione proprio della settima arte, quindi del cinema. E allora il racconto del film da parte di Diego Giuliani e poi qui la Rosa Purpurea. Madonna, ascoltiamo. Questo è un esercizio rispettabile. Non puoi presentarti qui con quelle pillole in tasca e un occhio nero spaventando i clienti. Io mi rifiuto di lavorare per un integralista. Pirotecnico irriverente, in apparenza del tutto sconclusionato al suo esordio in regia, Madonna diverte e si diverte con un monumento al pop. 80 minuti appena in cui tra ballerine, sadomasochisti e farmaciste per caso ricrea un universo allegorico della sua personalissima visione del mondo. Sacro e profano, due facce della stessa medaglia. Mattatore sullo schermo è Eugene Huns, il popolare leader della band ucraina dei Gogol Bordello. Baffoni alla tartara, parlata zoppicante e petto rigorosamente nudo è l'esilarante portavoce del messaggio del film. Filth and Wisdom, ovvero sudiciume e saggezza del titolo originale, i poli opposti dell'universo valoriale che lo guidano negli snodi tra le sconclusionate avventure dei tre eccentrici protagonisti. Quando morirò andrò dritto sparato in paradiso. E voi mi chiederete perché? Tutto ruota intorno alle dissertazioni dell'improbabile menestrello da lui stesso interpretato e che già si candida a novello Borat. Dalla vasca da bagno col whisky e la sigaretta in bocca, nei panni del professore, del masochista in mantello e cilindro, o ancora del clone della Thatcher in tagliere e filo di perle, ride stralunato sotto i baffoni alla tartara e snocciola i fondamentali della sua filosofia. Saggezza e sudiciume, dice, sono due facce della stessa medaglia. Non puoi salvarti se prima non fai un salto all'inferno. Madonna rompe gli schemi e risponde all'unico imperativo dell'anarchia. Prendere o lasciare, sembra dire allo spettatore. Quello che ci offre è un treno in corsa che, se preso al volo, porta dritto al suo intimo. Per gli scettici, la rockstar fa poi sfoggio di grande disponibilità e in mezz'ora abbondante di conversazione si concede senza riserve parlando di cinema, vita e paure. Sentiamo cosa ci ha detto. I'm a huge fan of Godard's and I agree that a title is very important. Sono una grandissima fan di Godard e sono d'accordo con lui, il titolo di un film è molto importante. Beh, in questo caso si chiama così perché tratta due temi fondamentali. Da una parte il dualismo che ci propone la vita, dall'altra la battaglia con questo dualismo. Sacro e profano sono il dualismo estremo, in apparenza poli opposti dello spettro, che in fondo però non sono così lontani. Quello che provo a comunicare con questo film è che si può imparare e trovare il bene in entrambi, il sudiciume nella saggezza e viceversa. You can find wisdom in filth and vice versa. Up and God knows where, I'm still holding up in all my ways. I think 30 years ago it meant that I could feed myself and put a roof over my head. 30 anni fa credo che la felicità fosse poter mangiare, avere un tetto sopra la testa, sopravvivere a New York, trovare un posto nel mondo e fare in modo che la mia voce venisse ascoltata. Ora credo che per me significhi il fatto che tutto questo continui ancora ad accadermi. Happiness is being grateful that all those things continue to happen for me. La voce di Madonna, neoregista con Sacro e Profano qui alla Rosa Purpurea. Si continua a giocare, seconda finestra aperta sulla DVD Game, un altro frammento, un'altra traccia del film misterioso di questa settimana. Nome? Jamal. Allora ce l'hai un nome. Smettila di frignare. Lavoro in un call center. Azzurro. Bravo. La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a indovinare di che film si tratta e provare a vincere quindi il DVD di questo film. Noi proseguiamo con l'ultima proposta cinematografica di questo weekend. È un film di genere, un horror anche piuttosto intenso, che arriva dalla Francia, come già era capitato la stagione scorsa con Saint-Ange. All'epoca non fu esattamente il film più bello della storia. Vediamo come sono andate le cose con questo Martyrs, ce lo racconta Barbara Righini. Presentato agli ultimi festival di Roma e di Toronto, Martyrs debutta nelle sale in questo finale di stagione, riportando la paura in primo piano, e mai titolo è stato più azzeccato, perché è proprio il martirio delle carni a essere protagonista. Pascal Logier supera però film incentrati sulle torture come Hostel o Saw. Il clima è subito chiaro dalla sequenza iniziale: una bambina corre fra palazzi decadenti, sporca e mezza nuda, urlando, sta scappando da una violenza. Lucy sarà accolta in una casa famiglia dove incontrerà l'amica più importante della sua vita, Anna. Lucy? Anna! Anna! Non devi dirlo, eh! Non devi fare così. Ora calmati. 15 anni dopo, Lucy si vendica e stermina la famiglia dei suoi aguzzini. Chi è questo rompipalle? Modera il linguaggio, Marie Belfond. Oh, oggi è domenica. E allora? Da cosa ti riposi la domenica, eh? Dalla tua settimana in fabbrica? Restate qui, non muovetevi! Proprio quando la storia sembrava avviarsi a una conclusione, il film vira, muta pelle e si addentra negli abissi della follia umana. La protagonista non è più Lucy, d'un tratto è Anna a trovarsi faccia a faccia con le violenze un tempo subite dall'amica. Martyr è un film onesto, disturbante, che non cede al narcisismo e che si affida a una messa in scena crudamente realistica. Per chi ama il genere, una visione da non perdere, e per chi non è avvezzo all'horror ma ha lo stomaco forte, la scelta per una serata diversa. Ed esaurito lo spazio dedicato alle novità, noi vogliamo aprire una finestra su un festival di grande storia, di grande tradizione, arrivato ormai alla 55esima edizione, che si apre proprio in questo fine settimana per finire il 20 giugno. Si tratta del Taormina Film Fest, con una partecipazione di grandi attrici francesi quest'anno, perché il focus è proprio incentrato sul cinema francese. Arriveranno Dominique Sanda, Catherine Deneuve, ci saranno come sempre però i concorsi, e quest'anno un allargamento ad altre tre importanti città siciliane. Ma ci spiega tutto la direttrice Deborah Young nell'intervista raccolta dalla nostra Annalisa Misceu. Il festival si svolgerà ovviamente sempre a Taormina come il posto principale, ma anche in altri tre location della Sicilia. A Palermo vogliamo ridere con la giovane commedia americana, e ci saranno film nuovi in anteprima dalle major studio di Hollywood. A Siracusa invece facciamo una grande festa per il Brasile, insieme a 10 film e il grande musicista Carlinhos Brown, che farà un concerto a Taormina che sarà visto in tutte le tre location. E poi a Palma di Montechiaro invece abbiamo una ricchissima rassegna che si chiama Donne Forti, e appunto che festeggia il lavoro di donne coraggiose e ribelli che fanno cinema. Per il concorso Mediterranea, che è il concorso principale, offriamo 4 premi, compreso il Tauro d'Oro. Quest'anno sono molto fiera di dire che abbiamo grandissimi registi che competono, come André Téchiné con La ragazza sul treno, oppure Antonio Capuano, il regista napoletano, che ci presenta in anteprima il suo film Nuovo Giallo. Oltre il Mediterraneo, poi, è una vetrina di tutti gli altri paesi del mondo, dove altrettanti famosi registi come Shyam Benegal dall'India sarà in concorso insieme a Brasile, gli Stati Uniti, Messico, Germania, per il premio del pubblico. Deborah Young, direttrice del Taormina Film Fest. Noi siamo arrivati a un'altra nostra classica rubrica, che è Trailer USA, le anticipazioni sui nuovi film americani attraverso i suoni originali dei trailer. Una rubrica speciale oggi, perché vi faremo sentire un'anteprima del nuovo film di un genio del cinema come Woody Allen. Si chiama Whatever Works, il nuovo lavoro, letteralmente qualsiasi cosa possa funzionare. Per farcela raccontare, noi ritroviamo la nostra Micaela Bellisario. Ciao Franco! Allora Micaela, Whatever Works, dicevamo, è un film che segna il ritorno del regista di Manhattan nella sua amata New York dopo 4 film girati in Europa all'indomani dell'11 settembre e del governo Bush. L'ultimo è stato Vicky Cristina a Barcellona, girato appunto in Spagna. Il primo fu Match Point a Londra, lo ricorderete. Applaudito al Sundance Film Festival, il film, questo nuovo film di Woody Allen, è un po' anche il ritorno del regista alle sue origini, alla sua verve ironica, insomma si torna a ridere. Micaela, di cosa parla Whatever Works? Sì, il film parla del cambiamento di vita di un uomo, l'eccentrico scienziato ebreo Boris Yelnikov, che a 60 anni suonati cade in depressione e dopo l'incontro con una ragazza di 21 anni decide di mollare la moglie, la sua bellissima casa Manhattan, per una vita più bohemienne. Ecco il passo del trailer in cui si presenta. L'attore è Larry David e interpreta in pratica un giovane Woody Allen. I'm not a likable guy. Checkmate, you little putzer. Hey! I was considered for a Nobel Prize in Physics. I didn't get it. Mom, that man's talking to himself. Why, Justin? This is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. Tra la ragazza, interpretata dall'attrice Evan Rachel Wood, e Boris Yelnikov scatta ovviamente la scintilla. E la cosa divertente è che ognuno dei due porta nel menage amici e parenti e la loro vita in comune prenderà una piega davvero scapestrata, un po' sulla falsariga di un altro famoso film di Woody Allen, La Dea dell'Amore, che consegnò un Oscar a Mira Sorvino. E questo anche se la stampa americana ha definito il nuovo film di Woody Allen vintage, perché al centro della storia ci sono un po' tutti i tipici temi alla Allen anni 70, quindi la riflessione sull'amore, sul sesso, sulla morte e sulla vita. Ma ecco il pezzo in cui lo scienziato si incontra con la giovane, il loro primo incontro. Sir? Hey, what? Oh, God, you scared me. Can you help me get something to eat? God, stop that. How old are you? I'm 21. Yeah, you're 21 like I played for the Yankees. Professional athlete with that lamp? Oh Christ. Beh, se abbiamo ritrovato il Woody Allen della grande stagione newyorkese, davvero non vediamo l'ora di vederlo questo film, che uscirà negli Stati Uniti il 19 giugno, cioè la settimana prossima. Da noi dovrebbe arrivare solo a dicembre per Natale. E allora noi salutiamo Micaela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea. Quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea che si apre con l'ascolto dell'ultima traccia del film misterioso di questa settimana. Sei pronto? Sì. Per favore, un grande applauso. Buona fortuna. Al primissimo concorrente della serata, Jamal Malik, dalla nostra cara amata Mumbai. Forza, scendiamo. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il DVD di questo film. La settimana prossima sveleremo di che film si tratta. Invece continua la nostra iniziativa Io in un film, con la quale vi chiediamo di dirci in quale film vi siete particolarmente immedesimati. Tra l'altro su questo tema, cioè l'immedesimazione di se stessi in un film, in un personaggio di un film, stiamo preparando una sorpresa per il mese di agosto. Quindi seguiteci perché vi sapremo dire nelle prossime puntate. Ebbene, ci ha scritto Claudia Brunelli di Osnago, vicino Lecco, e dice: il mio film è Sesso, bugie, videotape, del secondo ascoltatore, anzi la seconda ascoltatrice, che ci racconta che questo è il film in cui si è identificata di più. Dice Claudia: l'ho visto in TV parecchi anni fa, nel 94, nel 95, quando il mio matrimonio sembrava infallibile. Nel vederlo ricordo che ho pianto tantissimo, forse è una premonizione sulla fine del mio rapporto di coppia. Ciao Claudia. Ciao anche a te Claudia, grazie per averci iscritto a questa nostra iniziativa Io in un film. L'indirizzo è il solito, larosapurpurea@radio24.it. E allora siamo quindi a questo punto allo svelamento della DVD Game della settimana scorsa. Vi avevamo fatto ascoltare 3 tracce di un film, eccone una. Vieni da me, fagiolino. Sai che non ti somiglia per niente? Meno male. Però è vero, non somiglia veramente a nessuno. Neanche a tua moglie? No. Si trattava di Solo un padre, di Luca Lucini, uno dei film italiani più riusciti della stagione che si va chiudendo, uno dei tanti film che hanno visto protagonista o comunque nel cast Luca Argentero, l'ex ragazzo del Grande Fratello, diventato un attore di quelli particolarmente azzeccati. Diverso da chi, per esempio, è stato uno dei film che lo ha rivelato quest'anno. Fra poco ascolteremo Luca Argentero qui alla Rosa Purpurea, perché Solo un padre esce in DVD per Warner. Prima però sentiamo cosa ne pensa il nostro super critico Claudio Poffi, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti. Allora, il film di Luca Lucini, Solo un padre, arriva in DVD da parte di Warner con un'ottima qualità video, assolutamente nulla da eccepire. Segnalo, per l'italiano, un Dolby Digital multicanale veramente notevole. Il film è di ottima qualità, con contenuti speciali. Sono disponibili un backstage con approfondimenti sulla lavorazione, scene inedite e il trailer. E questo per quanto riguarda Solo un padre. Hanno indovinato, tra gli altri, vincendo quindi il DVD, Gabriele Biasini di Vercelli e Nicoletta Nava di Carate Brianza, provincia di Milano. E loro sono gli ascoltatori che riceveranno appunto a casa il DVD di Solo un padre. E a proposito del protagonista Luca Argentero, eccolo raccontarsi e raccontarci il momento della sua carriera che sta attraversando qui alla Rosa Purpure. La prima volta che sono stato su un set cinematografico, che era, insomma, era il film di Francesca Comencini, era a casa nostra, e il mio primo giorno di set mi si avvicinò un macchinista romano, mi disse: ma che è il tuo primo film? E gli faccio: sì, perché? Fa attenzione, perché il film rimane. Ed è una considerazione tanto banale quanto vera. Guardiamo film che hanno 50 anni, quindi effettivamente se il DVD è un decorso naturale della vita di un film, che ne allunga le potenzialità, ne allunga la vita, lo rende in qualche modo eterno. Visto che ormai invece ti affacci alla prossima stagione con un profilo che è sicuramente diverso da quello di un anno fa, quali sono magari i titoli sui quali diresti al tuo pubblico che hai trovato durante quest'anno: beh, guardatemi lì, perché lì sarete contenti, insomma? Beh, la stagione la apriamo come meglio non si potrebbe, perché il film di Michele Placido, Il grande sogno, che è in concorso a Venezia, quindi insomma la stagione iniziamo così. E adesso sto girando invece, a proposito di Solo un padre, il nuovo film di Luca Lucini, che invece sarà in sala fino a ottobre, primi di novembre, ed è una commedia divertentissima, si chiama Oggi sposi. Insomma, chi, per tornare al tema della tua domanda, chi si è divertito, perché poi fondamentalmente così è stato, su Diverso da chi, insomma, Lezioni di cioccolato, quindi la commedia più divertente, Oggi sposi sarà. Ci stiamo divertendo già ora sul set, quindi presumo che ci saranno buone possibilità di far divertire gli altri. Era Luca Argentero, ospite della nostra sezione dedicata all'home video qui alla Rosa Purpurea. Noi proseguiamo con Claudio Poffi, perché dobbiamo parlare di una straordinaria saga che ancora oggi raccoglie successi un po' ovunque nel mondo. Ascoltiamo questa breve clip. Con l'aiuto del computer cercherò di ricostruire la tragedia. Pare che il Valiant abbia incontrato una tempesta magnetica e sia stato deviato dall'orbita. È sospinto per inerzia in questa direzione. Proseguì impotente la sua corsa fino a oltrepassare la galassia. Tornò indietro, però, appena i comandi lo consentirono, fino ad arrivare qui. Non riesco a capire bene, i nastri sono molto rovinati. Pare che l'astronave abbia incontrato una forza sconosciuta. L'avete capito, si tratta di Star Trek. Mentre l'ultimo film della lunga genia è ancora in qualche cinema, e vi consiglio di andarlo a vedere perché è davvero molto interessante e divertente, arriva in un video la prima stagione del telefilm classico completamente rimasterizzata. Claudio. Eh sì, grazie a Paramount Home Video, dopo innumerevoli edizioni in home video delle creazioni TV e cinema di Star Trek, è ora tempo di edizioni restaurate totalmente. Nonostante la prima stagione della prima serie americana risalga al 1966, la Major americana ha pensato bene di investire nuovamente in essa, offrendo agli appassionati il meglio possibile sul mercato, e quindi le avventure del comandante Kirk e del fedele equipaggio dell'astronave Enterprise sono state interamente restaurate con un massiccio intervento di sistemazione dei danni presenti sui negativi originali durante la fase di riversamento è stato riversato in alta definizione e così restaurato. E allora la prima delle tre stagioni dell'originale serie è finalmente disponibile su 7 dischi in DVD e in Blu-ray. Sono veramente tantissimi gli extra disponibili. Tra l'altro, nell'edizione Blu-ray è possibile addirittura visionare l'opera con approfondimenti e ricordi da parte di chi vi ha lavorato. Ricordo tra l'altro che grazie al film di J.J. Abrams Paramount ha dato stura ovviamente anche al resto delle opere, quindi i primi 6 film della saga di Star Trek sono a brevissimo disponibili in DVD e anche in Blu-ray. E andiamo avanti con l'ultimo consiglio di questa settimana in DVD, un grandissimo film opera, come si usava dire una volta, forse uno dei più riusciti di questo genere. Stiamo parlando di Don Giovanni di Joseph Losey, ascoltiamo la clip. Zito di Donna Elvira, signor, la voce io sento, ogni o voi momento, tu ferma di un balletto, ferma di un balletto. Era 1979 quando Joseph Losey metteva in scena questa bellissima versione cinematografica dell'omonima opera mozartiana, la storia appunto di Don Giovanni, spalleggiato dal servo Leporello, alla ricerca di vittime da sedurre. L'opera è stata interamente restaurata nel 2008, sia per la parte video che sotto il profilo audio, quindi è finalmente disponibile, torna in vita questa splendida opera di 3 ore, per ora solo su DVD, con disponibile una traccia in italiano multicanale grazie proprio al nuovo remissaggio delle oltre 80 piste sonore del film. Non sono purtroppo disponibili degli extra. Grazie Claudio Pofi, appuntamento fra 7 giorni qui per parlarci di DVD alla Rosa Purpurea. A presto, un saluto. Ed eccoci quindi arrivati in fondo a questa puntata della Rosa Purpurea, è volata via un'altra ora a parlare di cinema. L'appuntamento va alla prossima settimana, sabato alle 18, domenica mattina alle 9 per chi ci ascolta in replica qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.